Terzo anello ad alta voce. Lord Jim di Joseph Conrad. Infine entrò, ma credo vi sia stato indotto soprattutto dalla pioggia, che proprio in quel momento stava cadendo con una violenza furiosa, che si attenuò gradualmente mentre parlavamo. Era calmo e risoluto. Il suo contegno era quello di un uomo di indole taciturna dominato da un'idea fissa. Suppongo che lei voglia continuare a mangiare, bere e dormire sotto un tetto come una persona normale. Ricordo di avergli detto irritato: lei dice che non toccherà il denaro che le è dovuto. Reagì, per quanto possono farlo quelli come lui, con un gesto inorridito. Aveva una paga arretrata di 3 settimane e 5 giorni come primo ufficiale del Patna. Ebbene, ora il problema non è ancora serio, ma che cosa farà domani? A chi si rivolgerà? Lei deve vivere. Non è questo che conta, fu il commento che gli sfuggì fra i denti. L'ignorai e continuai a combattere contro quelli che immaginavo essere gli scrupoli di una sensibilità abnorme. Vi sono 1000 motivi, conclusi, per cui lei deve permettermi di aiutarla. Lei non può farlo, disse con grande semplicità e dolcezza, abbarbicato a un'idea profonda che vidi baluginare come una polla d'acqua nell'oscurità, ma a cui disperavo di poter mai avvicinarmi a sondarne la profondità. Osservai il suo corpo robusto e ben proporzionato. Comunque, dissi, sono in grado di aiutare ciò che vedo di lei. Non ho la pretesa di fare altro. Scosse la testa con aria scettica, senza guardarmi. Cominciavo a infiammarmi. Posso farlo, insistetti. Posso fare anche di più. Lo sto facendo. Mi sto fidando di lei. Il denaro, cominciò Jim. Parola mia, meriterebbe che la mandassi al diavolo, esclamai accentuando la mia indignazione. Trasalì, sorrise e io sferrai l'attacco decisivo. Non è affatto una questione di soldi. Lei è troppo superficiale, dissi, e contemporaneamente dicevo tra me: beccate questa. E forse lo è veramente, dopo tutto. Guardi la lettera che voglio darle. È stata scritta a un uomo al quale non ho mai chiesto un favore, e vi ho scritto di lei in termini che ci si arrischia a usare solo quando si parla di un amico intimo. Mi faccio garante per lei senza riserve. Ecco cosa sto facendo, e se veramente riflette un po' su quanto ciò significhi. Di colpo prese a muoversi a scatti, come una marionetta di legno mossa dai fili. Alzò le braccia e le riabbassò bruscamente. Era diventato un altro uomo. «E io che non capivo!» gridò. Quindi improvvisamente si morse il labbro e aggrottò la fronte. «Che pezzo di somaro sono stato!» disse lentamente e con tono pieno di rispetto. «Lei è un uomo generoso!» esclamò quindi con voce velata. Mi afferrò la mano, come se l'avesse vista solo allora per la prima volta, e subito la lasciò ricadere. «Ma come? Questo è quello che io... lei... io...» balbettò. E quindi, tornando ai suoi modi ostinati, potrei dire da mulo, ricominciò a dire con tono secco: «Sarai un bruto, ora sì...» Ma la sua voce parve incrinarsi. «Si calmi», dissi. Ero quasi allarmato da queste manifestazioni di sentimento, dalle quali traspariva una certa esaltazione. Avevo toccato quella corda accidentalmente, per così dire, non capivo ancora il funzionamento del giocattolo. «Ora devo andare, per Giove, lei mi ha aiutato davvero, non riesco a star fermo, questo solo fatto...» Mi guardò pieno di ammirazione e di perplessità. «Questo solo fatto... mi deve scusare se quello che dico non sarà adeguato», esclamò. «Non ci sono parole. Già ieri sera lei mi ha fatto un gran bene, ascoltandomi, capisce... Le assicuro che ho temuto più di una volta che la testa mi scoppiasse.» Saltava letteralmente qua e là, si ficcava le mani nelle tasche, le tirava fuori di scatto, si gettava il berretto sulla testa. Non immaginavo che potesse avere tanta vivacità. Pensai a una foglia secca presa in un vortice di vento, mentre un timore misterioso, il peso di un dubbio indefinito, mi gravava addosso come piombo, impedendomi di alzarmi dalla sedia. Si fermò di botto, come se fosse stato paralizzato da una scoperta. «Lei mi ha dato fiducia», disse in tono solenne. «Oh, per l'amor di Dio, mio caro amico, non dica questo», esclamai supplichevole, come se ne fosse rimasto offeso. «Va bene, starò zitto, ora e in futuro, ma non può impedirmi di pensare, non importa, le farò vedere.» Andò rapidamente alla porta, Si fermò tenendo la testa abbassata e tornò verso di me misurando i passi. Ho sempre pensato che se si potesse ricominciare da zero, e ora lei in qualche misura, sì, da zero. Lo salutai agitando la mano, ed egli uscì senza voltarsi, e il rumore dei suoi passi si spense gradualmente al di là della porta chiusa, la cadenza sicura di un uomo che cammina alla piena luce del giorno. Come aveva detto, ricominciare da zero. Come se la prima parola del destino di ciascuno non fosse incisa a caratteri imperituri sulla superficie di una roccia. Sei mesi dopo, il mio amico, uno scapolo dal carattere cinico ormai abbastanza avanti negli anni, che aveva la fama di essere eccentrico ed era proprietario di una riseria, mi scrisse, e avendo intuito dal calore con cui l'avevo raccomandato che avrei avuto piacere nel ricevere notizie di Jim, si allungò alquanto sulle sue qualità, le quali evidentemente erano di natura tranquilla ed efficiente. Non essendo ancora riuscito a trovare in cuor mio qualcosa di meglio, di una rassegnata sopportazione per qualunque individuo appartenente al genere umano, ho vissuto finora solitario, in una casa che persino in questo clima soffocante può essere considerata troppo grande per un uomo solo. Ma qualche tempo fa l'ho invitato a venire ad abitare con me. Mi sembra di non avere sbagliato. Ne provai una triplice soddisfazione. Per il fatto che Jim si comportasse così bene, per il tono della lettera, per il mio intuito, evidentemente sapevo quello che facevo. Avevo capito l'animo delle persone e così via. E chissà, magari poteva sortirne qualcosa di inatteso e meraviglioso. Quella sera, abbandonato su una sedia a sdraio sotto il mio tendone di poppa, ero nel porto di Hong Kong, posi sul conto di Jim la prima pietra di un castello di sogni. Feci un viaggio a nord e al ritorno trovai ad aspettarmi fra la corrispondenza un'altra lettera del mio amico. Fu la prima busta che lacerai. A prima vista non ci sono posate mancanti, esordiva. Non mi è venuta la voglia di fare indagini. Lui se n'è andato, lasciando sul tavolo della colazione un bigliettino formale di scuse che non si sa se sciocco o crudele. Probabilmente entrambe le cose, e comunque lo è per me. Permettimi di informarti nel caso che tu abbia in serbo qualche altro giovanotto misterioso che in questo campo ho chiuso davvero e per sempre. Questa è l'ultima eccentricità di cui mi sono reso colpevole. Non pensare che me ne importi un fico secco, ma lo rimpiangono molto per le partite a tennis e da parte mia ho dovuto raccontare al circolo una bugia plausibile. Gettai da parte il foglio e cominciai a cercare nella massa della posta che si era ammucchiata sulla scrivania finché l'occhio non mi cadde sulla calligrafia di Jim. Lo credereste? Una probabilità su 100, ma è sempre la centesima a verificarsi. Quel piccolo secondo motorista del Patna era arrivato lì in condizioni più o meno malandate e aveva trovato un'occupazione temporanea come sorvegliante delle macchine della riseria. Non ho sopportato la familiarità con quell'animale. Jim mi scriveva da un porto di mare a 700 miglia a sud del posto dove avrebbe potuto vivere come un principe. Attualmente lavoro alla ditta di forniture navali Eggstrom e Blake, con mansioni, diciamo pure, di fattorino, per chiamare le cose con il loro nome. Come referenze ho fatto il suo nome, che naturalmente conoscono. Se lei potesse scrivere loro due parole a mio favore, questo impiego potrebbe diventare permanente. Rimasi travolto dalle macerie del mio castello, ma naturalmente feci quello che mi aveva chiesto. Prima della fine dell'anno il mio nuovo contratto mi portò da quelle parti ed ebbi l'occasione di vederlo. Era ancora presso la Eggstrom e Blake e ci incontrammo in quello che loro chiamavano il nostro salotto, che si trovava fuori dal negozio. In quel momento era rientrato dopo essere salito a bordo di una nave e mi venne incontro a testa bassa, pronto a litigare. «Che cosa ha da dire a sua giustificazione?» cominciai, dopo che ci fummo scambiati una stretta di mano. «Quello che le ho scritto, nient'altro», rispose caparbio. «Quel tale aveva spifferato tutto o cosa?» chiesi. Mi guardò con un sorriso turbato. «Oh no, voleva che rimanesse una specie di segreto fra noi. Assumeva un atteggiamento tremendamente misterioso ogni qualvolta arrivavo alla riseria. Ammiccava in modo rispettoso, come a dire, sappiamo ciò che sappiamo. Era insopportabile quel suo tono servile e di grande familiarità e tutto il resto». Si gettò su una sedia con lo sguardo fisso sulle proprie gambe. Un giorno ci trovammo per caso soli ed ebbe l'impudenza di dire «Bene, signor James». Lì mi chiamavano signor James come se fossi stato il figlio del padrone. «Eccoci di nuovo insieme. Qui è meglio che sulla vecchia nave, vero? Non era spaventoso?» Lo guardai e lui assunse l'aria di chi la sa lunga. «Non si sente così imbarazzato, signore», mi dice. «Riconosco un gentiluomo quando lo vedo e so che cosa prova. Spero però che lei non mi faccia perdere questo lavoro. Ho passato un momentaccio anch'io, stando con quell'infame combriccola del Patna. Per Giove, era terribile». «Ho preferito andarmene», disse lentamente. «Questa faccenda deve rimanere morta e sepolta». Ci stringemmo la mano in silenzio ed egli si girò per uscire. «Jim!» esclamai. si voltò a guardare tenendo la mano sulla maniglia. Lei ha buttato via una fortuna. Si staccò dalla porta e tornò vicino a me. Uno splendido vecchio, disse. Come ho potuto? Come ho potuto? Aveva le labbra contratte. Qui non importa. Oh, lei, cominciai e dovetti fermarmi. Alla ricerca della parola adatta, ma era scomparso prima ancora che mi rendessi conto che non ce n'era nessuna davvero appropriata. Non ebbi modo di rivederlo durante il resto del tempo che passai in quella città, ma la volta successiva avevo un contratto di 6 mesi e andai al negozio. A 10 metri dalla porta le mie orecchie percepirono le querimonie di Blake che quando entrai mi guardò con occhi carichi di risentimento. Eggstrom, tutto sorrisi, mi venne incontro tendendomi la grande mano ossuta. «Lieto di vederla, capitano!» «Shh, pensavamo che sarebbe arrivato da un momento all'altro!» «Che cosa dice, signore?» «Shh, lui ci ha lasciato! Venga nel salotto!» Da dietro la porta, che si rinchiuse sbattendo, le aspre recriminazioni di Blake ci arrivarono debolissime, come la voce di un uomo che grida nel deserto. «Ci ha creato non pochi problemi, si è comportato male con noi, devo dire!» «Dove è andato? Lo sa?» gli chiesi. «No, ed è anche inutile farsi queste domande», disse Eggstrom, fermo, in piedi davanti a me, con le sue fedine e il suo atteggiamento ossequioso. Aveva le braccia goffamente rigide lungo i fianchi. La sottile catena d'argento dell'orologio descriveva un arco molto basso sul gualcito gilet azzurro. «Un uomo come lui non va in nessun posto in particolare». Ero rimasto così sbalordito dalla notizia che non chiesi chiarimenti su quell'affermazione ed egli proseguì. «Se n'è andato, vediamo. Lo stesso giorno in cui la nave dei pellegrini che tornava dal Mar Rosso ha fatto scalo qui con 2 pare dell'elica rotte. Ormai 3 settimane fa. Forse hanno accennato al caso del Patna?» Chiesi temendo il peggio. Trasalì e mi guardò come se fossi stato un mago o un indovino. «Ma sì, come lo sa? Qualcuno ne parlava qui da noi. Ero con un paio di capitani, con il direttore del cantiere Vanlo al porto e altri 2 o 3. C'era anche Jim che stava prendendo un panino e un bicchiere di birra. Vede, capitano, quando c'è molto da fare non c'è tempo per un pasto vero e proprio. Mangiava panini in piedi accanto a questo tavolo, mentre gli altri erano intorno al cannocchiale ad osservare il vapore che entrava nel porto. E allora il direttore del Vanlo cominciò a raccontare del comandante del Patna, perché una volta gli aveva fatto delle riparazioni. E poi si dilungò a descriverci la nave e a dirci che vecchia carretta fosse e del denaro che ne avevano ricavato. Infine cominciò a parlare dell'ultimo viaggio del Patna e a questo punto intervenimmo tutti. Ognuno diceva la sua, ma senza lunghi discorsi. Sapete le cose che si dicono in queste occasioni. E ci fu qualche risata. Ognuno diceva la sua, ma senza lunghi discorsi. Sapete le cose che si dicono in queste occasioni. E ci fu qualche risata. Il capitano O'Brien della Sarah W. Granger, un vecchio, grosso e chiassoso, con un bastone, ci ascoltava seduto su questa poltrona. Beh, da un colpo improvviso sul pavimento. E grida col suo vocione. Mascalzoni! Ci fece fare un balzo. Il direttore del cantiere ci strizza l'occhio e ci chiede. «Ma che cosa le è successo, capitano O'Brien?» «Che cosa mi è successo?» comincia a urlare il vecchio. «Di che cosa state ridendo, stupidi selvaggi? Non c'è niente da ridere. È una cosa da delinquenti, ecco che cos'è. Io avrei vergogna a farmi vedere con qualcuno di questi uomini, sì signore!» Poiché sembrava guardare proprio a me, mi sentì in dovere di rispondergli per educazione. «Sono dei mascalzoni», dico. «Naturalmente, capitano O'Brien, e neanche io voglio avere nulla a che spartire con loro». «Dunque, lei è al sicuro in questa stanza, capitano O'Brien. Venga a bere qualcosa di fresco». «Ma che bere, Eggstrom!» dice lui con uno sguardo scintillante. «Quando voglio bere, caccio un urlo che me lo portino! Ora me ne vado. Sento puzza qui dentro». Thank you. E allora, signore, questo benedetto Jim mette giù il panino che aveva in mano, gira intorno al tavolo e mi si mette davanti. Il bicchiere di birra era ancora quasi pieno. «Io me ne vado», dice. «Proprio così». «Non è ancora 1:30», dico io. «Prima fatti una fumatina». Pensavo volesse dire che era l'ora di tornare al lavoro. Quando ho capito che cosa intendeva veramente, mi sono cascate le braccia, sicuro. Un uomo come lui non si trova tutti i giorni, signore. Un vero demonio con la barca a vela, pronto a fare miglia e miglia con qualunque tempo per andare incontro alle navi. Più di una volta sono arrivati qui parecchi capitani con gli occhi fuori dalla testa, che come prima cosa mi hanno detto: «Quel tuo procacciatore è un pazzo incosciente, Ekstrom. Navigavo a vista di giorno con le vele ridotte, quando ecco volare fuori dalla nebbia proprio sotto la proa una barca mezzo sommersa con l'albero investito dagli spruzzi. Due negri spaventati sdraiati sul fondo al timone, uno che urla come un ossesso. «Ehi, di bordo! Ehi, ehi, di bordo! Capitano! Ehi, ehi! È l'agente di Ekstrom e Blake che vuole parlarle! Ehi, ehi, Ekstrom e Blake, salve! Ehi, evviva!» «Le assicuro, capitano Marlo, nessuno poteva batterci sulle navi in arrivo quando era di turno Jim. Gli altri fornitori navali possono solo conservare i vecchi clienti e...» Ekstrom pareva scosso dall'emozione. «Insomma, signore, sembrava che non gli importasse nulla di dover fare 100 miglia in mare su un guscio di noce per procurare una nave alla ditta. Sembrava uno che si era messo in proprio e che si faceva in quattro per farsi un nome. E ora, di punto in bianco, in questo modo. Ah, io penso fra me, oh, vuole un aumento, ecco il problema, no? Vuole un aumento!» «Bene, dico, non metterla giù così dura con me, Jimmy. Dimmi la cifra, nei limiti del ragionevole.» Mi guarda come se avesse qualcosa in gola che non gli va giù. «Non posso più restare con voi.» «Ma che scherzo maledetto è questo?» chiedo io. Scrolla la testa e dal suo sguardo vedo che è come se già se ne fosse andato, signore. E allora gliene ho detta di tutti i colori. «Da che cosa stai fuggendo?» gli chiedo. «Chi ti insegue? Di che cosa hai paura? Sei più stupido dei topi. Loro non scappano dalle buone navi. Dove pensi di trovare un ormeggio migliore?» «Sei un...» E giù una sfilza di insulti. L'ho fatto impallidire, glielo giuro. «Questa ditta è solida», dico io. Lui fa un gran balzo. «Addio!» dice inchinandosi come un nobile. «Lei non è cattivo, Ekstrom. Le assicuro che se conoscesse i motivi non si scalderebbe tanto a trattenermi. Questa è la bugia più grossa che tu abbia mai detto in vita tua», dico io. «So quello che dico e quello che faccio!» Mi aveva fatto infuriare tanto che mi venne da ridere. «Non puoi almeno fermarti a bere questo bicchiere di birra, pagliaccio della malora!» Che cosa gli sia venuto addosso non l'ho capito. Sembrava che non riuscisse neppure a trovare la porta. Una scena davvero comica, glielo dico io, capitano. «La birra l'ho bevuta io!» «Bene, se hai tanta fretta, brindo alla tua salute col tuo bicchiere», dico. «Ma ricordati le mie parole, se continuerai ancora per un po' con questo giochetto, molto presto scoprirai che la terra non è grande abbastanza. È tutto!» Mi diede un'occhiata da incenerirmi e si precipitò fuori con una faccia che avrebbe fatto scappare i bambini. «E lei dove l'ha conosciuto, capitano? Se è lecito.» «Era il primo ufficiale del Patna in quel viaggio», risposi, consapevole che gli dovevo una qualche spiegazione. Per un po' di tempo Ekstrom rimase immobile, con le dita sempre infilate fra i peli della guancia, e quindi esplose. «Ma che diavolo importa ormai?» «Direi a nessuno», cominciai. «E chi diavolo è lui, comunque, per fare così?» E improvvisamente si infilò in bocca la punta della fedina sinistra e rimase sbalordito. «Per Diana!» esclamò. «Gliel'ho detto che la terra non sarebbe stata grande abbastanza per le sue mattane!» Thank you.